Così, il mio amore che stava finendo sembrava rendermi possibili nuovi amori. E Albertine, come quelle donne lungamente amate per se stesse che poi, sentendo affievolirsi l'inclinazione dell'amante, conservano il proprio potere accontentandosi del ruolo di mezzane, agghindava per me, come la Pompadour per Luigi XV, nuove amichette. Una volta il mio tempo era diviso in periodi nei quali desideravo questa o quest'altra donna. Quando i piaceri violenti dati dall'una erano saziati, volevo quella che donasse una tenerezza quasi pura, finché il bisogno di carezze più sapienti riportava il desiderio della prima. Adesso queste alternanze erano finite, o perlomeno uno dei periodi si prolungava indefinitamente. Ciò che avrei voluto era che la nuova venuta venisse ad abitare a casa mia e mi desse ogni sera, prima di lasciarmi, un bacio familiare di sorella. Avrei dunque potuto credere, se non avessi sperimentato quanto mi era insopportabile la presenza di un'altra, di rimpiangere un bacio più di certe labbra, un piacere più di un amore, un'abitudine più di una persona. Avrei voluto anche che la nuova venuta potesse suonarmi Vanteuil come Albertine, parlarmi come lei di Elstir. Tutto questo era impossibile. Il loro amore, pensavo, non sarebbe valso il suo. Sia che un amore cui si connettevano tanti episodi, visite ai musei, serate ai concerti, tutta una vita complessa che consente corrispondenze, conversazioni, un flirt preliminare ai rapporti veri e propri, una seria amicizia poi, abbia più risorse d'un amore per una donna che sa soltanto dare se stessa, come un'orchestra ne ha più di un pianoforte. Sia che, più in profondità, il mio bisogno d'una tenerezza dello stesso genere di quella datami da Albertine, la tenerezza di una fanciulla abbastanza colta e nello stesso tempo capace d'essere una sorella, non fosse come il bisogno di donne dello stesso ambiente di Albertine, che una reviviscenza del ricordo di Albertine, del ricordo del mio amore per lei. E sperimentavo una volta di più, innanzitutto, che il ricordo non è inventivo, che è impotente a desiderare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio di ciò che abbiamo posseduto. In secondo luogo, che è spirituale, così che la realtà non può fornirgli lo stato che cerca. Infine, che derivando da una persona morta, la rinascita che incarna è meno quella del bisogno d'amare, cui fa credere, che quella del bisogno dell'assente. Anche la somiglianza con Albertine della donna che avevo scelto, la somiglianza, ammesso che riuscissi ad ottenerla, della sua tenerezza con quella di Albertine, non facevano così che rendermi più sensibile all'assenza di ciò che avevo cercato senza saperlo e che era indispensabile per la rinascita della mia felicità. Ciò che avevo cercato, ossia la stessa Albertine, il tempo che avevamo vissuto insieme, il passato, di cui senza saperlo ero alla ricerca. Certo, nelle belle giornate Parigi mi appariva innumerabilmente fiorita, non tanto di ragazze che desideravo, quanto di tutte quelle che avevano radici nell'oscurità del desiderio e delle serate ignote di Albertine. Era, ammettiamo, una di quelle di cui all'inizio, quando non diffidava di me, mi aveva detto «È incantevole la piccina, ha dei così bei capelli». Tutte le curiosità sulla sua vita che avevo avute una volta, quando ancora non la conoscevo che di vista, e d'altra parte tutti i miei desideri della vita, si confondevano in un'unica curiosità, il modo in cui Albertine provava piacere. Vederla con altre donne, forse perché così andate via loro, io sarei rimasto solo con lei, ultimo e padrone. E vedendola in dubbio se valesse la pena di passare la serata con questa o con quella, la sua sazietà quando l'altra se ne fosse andata, forse la sua delusione, avrei illuminato, avrei riportato a giuste proporzioni la gelosia ispiratami da Albertine. Perché, vedendola mentre li provava, avrei preso le misure e scoperto i limiti dei suoi piaceri. Ah, di quanti piaceri, di che dolce vita ci ha privati, mi dicevo, con la sua scontrosa ostinazione a negare i suoi gusti. E mentre una volta di più cercavo quale mai potesse esserne stata la ragione, di colpo mi tornò il ricordo di una frase che le avevo detta a Balbec il giorno che lei mi aveva regalato una matita, rimproverandola di non aver permesso che le dessi un bacio. Le avevo detto di trovare tanto naturale questo quanto ignobile che una donna avesse rapporti con un'altra donna. Ahimè, Albertine forse se n'era ricordata. Portavo con me le ragazze che meno mi sarebbero piaciute. Accarezzavo acconciature virginali. Ammiravo un nasino ben modellato, un pallore spagnolo. Un tempo, certo, anche solo per una donna appena intravista lungo una strada di Balbec, in una via di Parigi, avevo sentito quanto ci fosse di individuale nel mio desiderio e come lo si sarebbe falsato cercando di soddisfarlo con un altro oggetto. Ma la vita, scoprendomi a poco la permanenza dei nostri bisogni, mi aveva insegnato che in mancanza ad un essere bisogna accontentarsi di un altro. E sentivo che quanto avevo chiesto ad Albertine avrebbe potuto darmelo un'altra, Mademoiselle de Stermaria. Ma era stata Albertine. E fra la soddisfazione dei miei bisogni di tenerezza e le particolarità del suo corpo, s'era creato un intreccio di ricordi così inestricabile che da un desiderio di tenerezza non potevo più estirpare tutto un ricamo di ricordi del corpo di Albertine. Lei sola poteva darmi quella felicità. L'idea della sua unicità non era più un a priori metafisico fondato su ciò che Albertine aveva di individuale, come una volta per le passanti, ma una posteriori, costituito dall'imbricatura contingente ma indissolubile dei miei ricordi. Non potevo più desiderare una tenerezza senza aver bisogno di lei, senza soffrire della sua assenza. Anche la somiglianza della donna scelta, della tenerezza richiesta, con la felicità conosciuta, non faceva così che rendermi più sensibile a quanto mancava in quelle perché questa potesse rinascere. Lo stesso vuoto che sentivo nella mia camera da quando Albertine se n'era andata e che avevo creduto di colmare stringendo delle donne fra le braccia, lo ritrovavo in loro. Non mi avevano mai parlato loro della musica di Vinteuil, dei Memoirs di Saint-Simon. Non s'erano mai messe un profumo troppo forte per venire da me. Non avevano mai giocato a confondere le loro ciglia con le mie. Tutte cose importanti, perché consentono, sembra, di fantasticare attorno all'atto sessuale in quanto tale e di darsi l'illusione dell'amore. Ma in realtà, perché facevano parte del ricordo di Albertine e perché era lei che avrei voluto trovare. Quel tanto di Albertine che c'era in quelle donne mi rendeva più sensibile a ciò che in loro mancava di lei e che era tutto e che non sarebbe mai più stato perché Albertine era morta. E così il mio amore per Albertine, che mi aveva attirato verso quelle donne, me le rendeva indifferenti. E il mio rimpianto di Albertine e il persistere della mia gelosia, che con la loro durata avevano già superato le mie previsioni più pessimistiche, probabilmente non sarebbero mai cambiati di molto se la loro esistenza, isolata dal resto della mia vita, fosse stata sottoposta soltanto al gioco dei miei ricordi, alle azioni e reazioni di una psicologia applicabile a stati di immobilità, e non fosse stata trascinata verso un sistema più vasto in cui le anime si muovono nel tempo, come i corpi nello spazio. Come c'è una geometria nello spazio, c'è una psicologia nel tempo, dove i calcoli di una psicologia piana non sarebbero più esatti perché non terrebbero conto del tempo e di una delle forme che esso riveste. L'oblio. L'oblio di cui cominciavo a sentire la forza e che come strumento di adattamento alla realtà è così potente perché distrugge a poco dentro di noi la sopravvivenza del passato, che con la realtà è in costante contraddizione. E in verità che un giorno non avrei più amato Albertine. Avrei ben potuto indovinarlo prima. Quando, grazie alla differenza fra l'importanza che la sua persona e le sue azioni avevano per me e per gli altri, avevo capito che il mio amore era meno un amore per lei che un amore in me. Da questo carattere soggettivo del mio amore avrei potuto dedurre diverse conseguenze, e in particolare che, essendo uno stato mentale, esso poteva sopravvivere abbastanza a lungo alla persona, ma anche che, non avendo con questa persona alcun legame effettivo, non avendo alcun sostegno al di fuori di sé, esso sarebbe andato un giorno, come ogni stato mentale, compresi i più durevoli, fuori uso. Sarebbe stato sostituito. E che da quel giorno tutto quanto sembrava unirmi così dolcemente, così indissolubilmente al ricordo di Albertine, non sarebbe più esistito per me. La disgrazia degli esseri è di non essere per noi che tavole di collezioni molto usurabili nel nostro pensiero. Proprio per questo si fondano su di essi progetti che hanno l'ardore del pensiero, ma il pensiero si stanca, il ricordo si distrugge. Sarebbe venuto il giorno in cui avrei dato volentieri la camera di Albertine alla prima venuta, così come avevo dato senza alcun dispiacere ad Albertine la biglia d'Agata o altri regali di Gilberte.